Allora, l'operazione, la situazione è abbastanza tranquilla. I ragazzi erano già preparati mentalmente. Tutti i ragazzi sono fuori. Qualcuno è andato a finire nei tendopoli come hanno proposto. Però non è stata un'idea condivisa in qualche modo. E alcuni si sono spostati spontaneamente per conto loro. Però comunque la situazione è tranquilla. Noi pensavamo che magari la situazione poteva essere un po' agitata, perché ieri sera che eravamo qua abbiamo sentito un po' di opposizione. Però da stamattina tutti sta svolgendo tranquillamente, ecco. Ecco, la prefettura aveva proposto anche dei posti nei CAS e negli SPRAR, giusto? Esatto, la prefettura ha proposto anche i posti negli SPRAR e nei CAS, però noi abbiamo parlato con il vice sindaco, anche con il vice prefetto stamattina. Praticamente non sappiamo dove, non si sa dove, stanno parlando di questo, non si sa dove. Era anche prevista che la gente che andavano a SPRAR e nei CAS, ci sono dei pullman, però i ragazzi non lo vogliono sapere, perché hanno già fatto il loro corso anche di accoglienza, tanti di loro sanno comunque come funziona, perché sono stati già nei CAS, nelle SPRAR, tutto quanto, e tornarci non sono tanto d'accordo. Dunque, da quella che a me mi risulta, nessuno si è mosso in quel senso, ecco. Perché sarebbero stati lontani dal luogo di lavoro? Esatto, perché poi il problema è proprio quello, non si sa dove li portano. Allora, come tanti di loro lavorano qua, nei comuni dintorni, vuol dire che spostando un po' più lontano da questi posti, si allontano anche dal posto di lavoro e non hanno i mezzi per tornarsi. Allora preferiscono stare qua intorno, almeno conservare il lavoro. E questo è anche un elemento che emerge. C'era un progetto di integrazione abitativa che non è mai andato avanti. L'USB aveva fatto anche, aveva proposto di fare da garante, giusto? Noi abbiamo fatto un incontro con il presidente della regione e abbiamo proposto un fondo di garanzia. Però il prefetto di questo discorso non vuole neanche sentire. Allora, il problema è questo. In Calabria ci sono almeno 35.000 case, diciamo, non solo tutti sfitti, perché sono anche case sequestrate, case che sono vuoti, e in tutto sono 35.000. Abbiamo parlato con il presidente della regione per fare un discorso all'alloggiativa, recuperando almeno anche quelle case sequestrate dalla mafia e case sfitti che ci sono, però l'approccio che abbiamo visto dalla regione è stato accolto positivamente. Però come questa operazione dello sgombero, la regione è stato tagliato fuori e si è posto un problema. Adesso in questo momento qua è stato aperto un tavolo dove c'era il confederale, la CGL, il Caritas, la prefettura e la questura, hanno deciso di sgomberare. Per quella che è il discorso case, non si è giunto neanche a questo discorso, ecco. Sostanzialmente dopo questo sgombero le persone comunque non avranno una soluzione. Non avranno una soluzione, perché l'idea è che di accettare almeno una soluzione alternativa, che sono i tendopoli. Se finché non accettano diventa un problema, perché comunque un gruppo non vuole andare a finire nei tendopoli, qualcuno andrà, però alcuni sono ancora decisi, sono ancora qua.